Luciano, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di... Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figo, non so io. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parlante se ne fregherà. Al diavolo è predicatore. Chi segue questo blog, chi partecipa a queste questi sondaggi, non so neanche come chiamarli, non ha interesse a confrontarsi sui contenuti, ma a offendere, a umiliare dal punto di vista sessuale. Quindi questa è una cosa veramente che è inaccettabile. Questi sono, come dire, quasi dei potenziali stupratori, perché la gran parte di questi che hanno commentato era un'istigazione a questa cosa qua, dicevo. Erano, come dire, facevano suggerire questa ipotesi, no? Quella era istigazione alla violenza. Istigazione alla violenza, d'accordo? Tant'è che i commenti che ci sono sotto gli occhi di tutti, basta guardarli. Alla violenza sessista, perché la cosa più sconsolante è che il 90% di quei commenti sono a sfondo sessisti. Che faccio, li leggo? Parenzo? Tutti, uno a uno. Ma uno letterale? Letterale? Uno a uno. Ma parola per parola? Vuoi parola per parola. No, non si può, dai. Parola. Un tale Enzo Castrini parola. Scrive: la metto a pecora e poi la fotto in culo. Dai, ma non si può, però, non si può, dai. No, questo è in questo caso lei sa che io non dico più parolacce. In questo caso, cazzo, allora, virgola, leggile tutte quelle che allora, hanno scritto. Allora, questo tizio si è firmato questi anche questi manganellatori della rete, questi fascisti postmoderni. Che però si firmano nome e cognome, dunque sono degli stupratori per modo di dire, dei potenziali stupratori per modo di dire, cioè non è che chi... Fascisti della rete! Sono dei coglioni del web, punto, non sono né potenziali stupratori né nulla. Violenti. E soprattutto non c'è nessun atto eversivo, perché la Boldrini dice anche che il movimento di Grillo è un movimento sostanzialmente eversivo, quello dice. Tutto questo a me fa venire alla mente qualcosa di brutto. Nel nostro paese, no? Qualche decennio fa il Parlamento era esautorato, qualche decennio fa i consigli comunali venivano bloccati in questo modo, si intimidiva e si cercava di bloccare la democrazia. Allora questo io trovo che non è accettabile, credo che siano atti eversivi e questo non può essere tollerabile. Allora, per mettere un po' di ordine, caro David, tutto nasce da una post che Grillo fa sul suo profilo Facebook. Cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina? In realtà che cosa succede? Viene postato un video realizzato da un attivista del 5 Stelle in cui si immagina di avere la Boldrini in macchina, con varie critiche sul modo in cui la Boldrini ha condotto la Camera in questi giorni, eccetera, eccetera. Però, insomma, la frase è questa: cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina? Da qui una serie di commenti tremendi su web, però non bisogna stupirsi, amici miei. Voi sapete bene quanti insulti arrivano qui al sottoscritto ogni giorno. Ma sì, dai, non bisogna stupirsi. E perché il Presidente della Camera si precipita come un quisque de populo, come una persona qualunque, come un deputato di quart'ordine in uno studio televisivo per commentare quello che avviene sul web? Per commentare quello che avviene sul web. Beh, no, non quello che avviene sul ma web. Ma sì, alla fine quello che avviene sul web, quello che Grillo posta sul web, non è che i commenti sono di Grillo, non è che quelli sono cioè necessariamente. Adesso stai dicendo che la colpa è della Presidentessa, no, della Camera, che questo è andata da signor Fazio. Io non ho detto questo. Alla Presidente della Camera, ecco, non è. Dai, no, dai, ma non è colpa sua. Non è su, colpa sua. Ho capito che li hai votati questi qui. Ma che però c'entra adesso? Di ma non mettere in mezzo. Battendo battendo la tua mano sul petto, così, mea culpa, io Giuseppe Cruciani ho mandato in Parlamento una pattuglia di fascisti mediatici, mea culpa, è mia massima colpa, io Giuseppe Cruciani di Radio 24 ho mandato in Parlamento questi fascisti mediatici. Stai zitto? Ok, hai fatto il teatrino, stai zitto? Allora, un tale che si firma mea culpa, batti sul petto, sul cuore, stai fermo, stai tranquillo. No, un tale che si firma un tale che si firma Guido Candela. Io voglio ogni tanto pronunciare nome e cognome. Guido Candela scrive: te la porti in un campo rom e la fai trombare con il capo villaggio. Adesso queste sono delle bestie inaudite, queste sono delle bestie, bisogna dirlo, a meno sta simpatica la Boldrini, ma questo non significa assolutamente nulla. Queste sono delle bestie inaudite che però non c'entrano con Grillo, cioè chiunque può entrare in un luogo, no, in un luogo pubblico, in una piazza mediatica e dire delle porcherie pazzesche. Beh, queste trovano, sono brodo, terreno fertile trovano. Cioè, però, secondo te certo istiga, clima. Dì la verità, secondo te istiga alla violenza? Dillo esplicitamente. Io l'ho detto in apertura, dillo, questa straordinaria Grillo fascia istiga, di ascolto. Istiga la violenza, dillo ma chiaramente. Certo, istiga questi comportamenti, a queste cose, certo che sì. Ma certo che sì, ma nessuno lo può mettere in dubbio ora, ma non vedi, non leggi quello. La rete, che è vero che è tutto virtuale, ma è come scrivere su un muro. Peggio che scrivere su un muro di una casa, no? Con però aspetta, ci sono tante cose. Ci sono tante cose che riguardano era Grillo. Era più coraggioso scrivere sui muri. Mamma mia, quanto ci metti. Però stai calmo, abbiamo 2 ore e mezza. Vuoi tutto, vuoi no, sprecare tutta adesso, la tua verba adesso? Un attimo che abbiamo un ospite. Però prima vorrei dirti un'altra cosa. C'è la vicenda Bignardi, che dobbiamo trattare. Perché un tale che si chiama Rocco Casalino, che è stato al Grande Fratello, come sapete, uno dei protagonisti, tra l'altro con la stessa Bignardi del Grande Fratello, e si è arrabbiato perché la Bignardi ha fatto la domanda sul padre fascista a Di Battista venerdì scorso. Scusate tutto questo accavallamento di nomi, ascoltatori, camionisti, tassisti, eccetera, eccetera. Si è arrabbiato Casalino e ha detto: scusa, se io domandassi alla Bignardi, no, del suo imparentamento con la famiglia Sofri, cioè con un ex terrorista, eccetera, eccetera, come sarebbe per te se ti invitassi a una trasmissione TV e le domande fossero: come si sente tuo figlio a scuola ad avere il nonno mandante di un assassino? Com'è l'aver sposato il figlio di un assassino? Tutto questo Rocco Casalino a Daria Bignardi. Però c'è l'ennesima giravolta di Casini, Ma scusami, ma Rocco Casalino partecipò a quell'edizione del Grande Fratello. Ma perché parli così tanto? La Bignardi. Perché parli tanto? Perché ho tante cose da dirti. Casini, Casini, l'ennesima giravolta. Io voglio farvi sentire solo un audio di Casini. Dice che adesso va con Berlusconi, no? Lo sapete, no? Vuole tornare con Berlusconi. Allora, 12 gennaio dell'anno scorso, un anno fa, sentite questa. Casini su Berlusconi, è il più grande bugiardo. Sentite. Berlusconi, devo dire, è un simpaticissimo uomo, ma è il più grande bugiardo del mondo. Per cui credere a Berlusconi è un atto di avventatezza totale. Siamo qui, 800 24 00 24, è con noi un'ex senatrice del 5 Stelle, adesso gruppo misto, Paola De Pin, buonasera. Buonasera. Come sta? Buonasera a tutti, bene, grazie. Senta, secondo lei Grillo è uno sessista, macista, cioè ce l'ha con le donne? Le faccio subito una domanda diretta senza fare prima considerazioni generali su quello che è successo. C'è uno che prende di mira le donne, cioè per lui è più lo dicono in molte, io non ci credo, secondo lei? Io penso un po' invece di sì, pensiamo alla Federica Salsi, no? È stata un po' la prima. Cioè lui ha una del punto G. Sì, lui ha un'avversione particolare, no, un'avversione, cioè è un po' macho da questo punto di vista. Come ma lo può definire? Lo definisca. Un ruolo sicuramente. Cioè, ma mi definisca il rapporto di Grillo con le donne, cioè un rapporto io sono io e voi non siete un eccetera eccetera? Ma io non lo so, Grillo, che rapporto abbia con le donne. No, ma non dal punto di vista personale, per carità, cioè non dal punto di vista sessuale. Dico, esatto. Dal punto di vista, cioè, ha un atteggiamento in cui bistratta le donne, cioè le considera esseri. Non lo so, mi dica lei. Mi sembra che tratta un po' tutti così, quelli che non pensano come lui e quindi sono indipendentemente dalle donne. Beh, però lei all'inizio mi ha detto, io quando le ho detto ha un atteggiamento sessista, mi ha detto di sì, cioè con le donne cioè ha un atteggiamento un po' diverso. Anche, io ho detto anche con le donne. Anche con le donne. Sì. Senta, ma lei pensa che ci siano stati degli atteggiamenti squadristi e fascisti da parte di alcuni esponenti del 5 Stelle in questi giorni? C'è un'escalation, la violenza sicuramente, non penso che il cittadino italiano sia un po' veramente stanco di queste urla, di questi turpiloqui continui, che non portano a nulla poi, solo a incrementare la violenza tra la guerra dei poveri. Ma adesso si scopre però, cara la mia senatrice De Pin. Beh, cioè, lei l'ha scoperto già da qualche tempo. Sulla sua pelle, certo, ma prima non si poteva intuire. Ma cosa le è costato a livello di minaccia, eccetera, personalmente? Tantissimo, guardi. Non vorrei neanche più parlare di quegli eventi, quei fatti costati a me, alla mia famiglia. L'hanno minacciata? E anche dura a superarli. Ma anche dal punto di vista psicologico, lei sta dicendo, soprattutto dal punto di vista psicologico? E soprattutto dal punto di vista psicologico, perché io penso di non aver mai fatto del male a nessuno, quindi non capivo tutta questa violenza rivolta verso uno che vuole solo manifestare le proprie idee. Ma hanno minacciato anche la sua famiglia? Via web? No, la mia famiglia no, però logicamente è tutta l'aria che gira attorno, insomma, le minacce del web, le parolacce sui giornali e continue. Ma lei non è che è dovuta andare da qualcuno, no, per recuperare un po'? Mi sono stati vicino alla famiglia sicuramente. Ma ha avuto paura? Io mi salvo perché ho dei bambini piccoli, quindi sì. Riesco a staccare e a vedere e devo anche vedere il mondo positivamente. Lei definirebbe Grillo un fascista? Ha dei metodi insopportabili per me. Fascistoidi, sì. Il Casaleggio? Una volta scrissi una frase e poi però mi hanno detto che non dovevo dirlo, un enigma avvolto nel mistero, no? Era stato definito Stalin. Come Stalin? Non ho capito. Voglio dire che è un enigma, non si capisce. No, ma come l'aveva definito dove lei? Dove va a parare questo uomo? Ah, che ne so, ce lo dica lei. Lei l'ha capito? È lei che l'ha frequentato, mica io. No, io non ho mai frequentato, no, assolutamente. No, quel movimento. Il movimento ci avevo creduto, come tanti italiani. Adesso cosa è diventato? O cosa è sempre stato, poi, secondo me, Sempre stato, ha ragione lei, cioè, ci sono le persone un po' più così idealiste che pensano di poter cambiare il mondo positivamente e invece poi ma che cos'è? Scientologi, una setta, a che cosa lo si può paragonare? No, sì, sicuramente è setta, però bisogna essere molto più sottili. No, io mi ricordo dei miei vecchi studi all'università, l'interpretazione della realtà. È un'azienda, un'azienda commerciale che deve puntare al fatturato. E allora lì è tutto immagine. Allora lei prima sentivo che parlava di Rocco Casalino, no? Sì. Io ancora a aprile mi ricordo che rimasi scioccata e stupita perché poi io un po' mi sono chiusa a riccio. Sì. Però mi ricordo la chat di Messora, il responsabile comunicazione al Senato, no? Messora lo conosciamo tutti, insomma, anche un'intelligenza rispettabile. E che ha fatto? Si fece chiamare nella chat Big Brother e lì mi si è accesa la campanella, una luce proprio di come Big Brother, sono il grande fratello io qui. Ma dice che Casaleggio ha mandato dei consulenti per fare una specie di lavaggio del cervello alla Camera e al Senato, lei ci crede a questa cosa? Sì, io ci credo, sì. La programmazione neurolinguistica. Gli sono scappata al loro programma, infatti ce l'hanno molto con me. Cioè al loro programma di cose, di rieducazione, di lavaggio del cervello, lei come lo definisce questo programma? Anche lavaggio del cervello, perché non è pensabile questi comportamenti così, senza un minimo di razionalità. Ma secondo lei c'è qualcosa che non funziona nel cervello di Grillo di Casaleggio? Ma che ne so io. No, ma così l'idea che si è fatta, che ne so, cioè sono un po' mattoidi? No, io direi che il cervello gli funziona benissimo, loro hanno un'azienda e devono massimizzare il profitto. Cioè non c'è nessuna idea, non hanno nessuna passione per il paese, per l'Italia, per cambiare le cose, nulla, cioè solo il profitto dell'azienda, secondo lei? sì, certo. Immagine, un attimo, Cacciara, Gran Cancan, un'altra luce che mi si è accesa è quella trasmissione, sì, che ci ricordiamo tutti della Gabbanelli, i click. Sì, i click, cioè? La gente che va nel sito ed entra... E fa click, quindi il numero. Comunque Messora ha scritto poi: cara Laura, volevo tranquillizzarti, anche se noi del blog di Grillo fossimo tutti potenziali stupratori, tu non corri nessun rischio. Poi si è scusato, eccetera. La sorprende questa cosa di Messora? Non sono ormai scuse troppo tardive. C'è ancora casino. Però io devo dire la verità, in questa storia di Boldrini, in questa querelle continua Boldrini-Grillo, caro Parenzo, ci sono stati gli errori sicuramente di Grillo, questo post, eccetera. Però di che parliamo? Cioè, l'intero mondo, l'intero establishment culturale, giornalistico, politico dalla parte della Boldrini, ma che non deve avere nessun timore, perché questi sono i coglioni del web, quelli che dicono che vogliono stuprarla, che la vogliono portare in un parcheggio, che vogliono fare eccetera eccetera, quelli che abbiamo nominato e che io vorrei che intervenissero, perché questi qua dovrebbero avere il coraggio di mettere, oltre che la firmetta lì e la frasetta sul web, dovrebbero, certo, intervenire con nome e cognome per ripetere queste porcherie. Beh, più di questo hanno messo il nome e cognome. Senatrice De Pin, Grillo istiga alla violenza con queste cose, con queste reazioni sul web che ci sono, sì, oppure no? Sì, sì, l'avevo, certo, io l'avevo anche nelle, ci ricordiamo le riunioni in Fiume dei grillini all'inizio della legislatura. Io una volta in riunione dissi ai miei colleghi: io non voglio far parte di questa istigazione alla violenza. Io non, io lo dissi proprio chiaramente ai miei colleghi. Dunque lui è responsabile di quello che poi si scatena sul web contro la Boldrini, per esempio, le frasi... Secondo me sì, guardi, perché non, non... Ma il fine comunque, non dobbiamo farci ingannare, secondo me. Poi per carità, io non ho la verità in tasca. Beh, né quello non nessuno. Non dobbiamo farci ingannare, che c'è un'azienda lì. Quello lei lo dice, c'è un'azienda che deve fare profitto, dice. Io devo vendere. Deve fare click, deve fare profitto, deve fare click. Sì, deve fare il profitto. Io mi sono fatta questa idea, insomma, in tanti mesi. Senta, senatrice De Pinna, ma Messora, lei lo conosce bene? Perché ha scritto quel tweet? No, io lo conosco, ci avrò parlato. No, forse non ci ho neanche mai parlato assieme. Io lo vedevo lì alle riunioni dei senatori. Insomma, non sapevo neanche chi fosse Rocco Casalino, perché io, Grande Fratello, le deve dire la verità, non l'ho mai guardato. Sono trasmissioni che io ho sempre... Senta, tutti i casini in aula che sono successi, secondo lei c'è una regia dietro oppure sono cose casuali organizzate da... No, sono fatte apposta perché voi giornalisti ne parliate. Cioè, sono fatte apposta da chi? Da Grillo e Casaleggio organizzano tutto? Certo. Cioè, danno gli ordini adesso? Devono sempre tenere l'attenzione alta, no? Perché poi la mia un po', si può definire anche rabbia, che tutte le istanze erano anche vere, erano anche giuste, però sono state tutte spettacolarizzate, tutte rese così... Ha capito? Cioè, lei spera che ne so, che il Movimento 5 Stelle venga spazzato via alle elezioni, alle prossime elezioni europee? No, io vorrei tanto che i rappresentanti, gli eletti, si staccassero dal padrone. Senta, ma lei che comunque al Senato, eccetera, con le sue colleghe, magari anche le donne, ma non solo le donne, ci parla, c'è aria un po' di frondo oppure in realtà... Non succederà, paura. C'è paura addirittura, ma anche tra le senatrici a 5 Stelle, sto dicendo. Beh, certo, chi vuole, io ho solo che rimesso a uscire, un atto di coraggio pagato carissimo, quindi conviene stare lì e stare buoni. Anch'io ce l'avevo pensato di starmene lì e starmene buona. Ma perché hanno paura le sue colleghe del 5 Stelle, scusi, o i colleghi maschi? Ma insomma, se lei a sua moglie gli dicono ti aspetto fuori, vedo l'ora che muori, gli farebbe piacere, insomma. No, quello no, ma ci sono senatrici o comunque suoi colleghi del 5 Stelle che vorrebbero uscire? Ma se ne parla da tantissimo, no? Se ne parla ancora da quest'estate, però io poi allora, io adesso non è che frequento più i miei ex colleghi, quindi non lo so com'è, però da quest'estate mi ricordo benissimo. Va bene, grazie, buona serata. Arrivederci. Grazie bene. A voi, arrivederci, salve. Nome moleste moschito. Allora, Isidoro Napoli, eccoci qui. Vai. Buonasera al caro Cruciani e caro Paronzo. Isidoro. Dite, volevo. No, dite, dica lei, non diciamo noi, dica lei. Che devo dire? Devo ma dire ha chiamato cosa... lei? Sì, sì, sì, e la rispondo subito. Mi sta capitando una cosa strana da ieri stamattina. Non so, cioè, la strada, le donne mi evitano, passo dall'altra parte del marciapiede. Poi vado a casa, mia moglie non lo so, mi guarda di traverso, non mi guarda in faccia. Che è successo? È successo che sono uno di quei 9 milioni di potenziali stupratori del blog di Beppe Grillo. Ecco che cosa è successo. Ah, lei è uno di quelli? Sì. Di quelli che... Ma l'ho guardi che 54 anni, guardi che la Boldrini si riferiva non agli lettori di Grillo, ai no. frequentatori del blog di Grillo. Io sono un frequentatore del blog di Grillo. E allora è un po' mica ha scritto quelle porcherie lei o no? No, non mi sarei mai messo più di qualche frase ironica, non l'avrei fatta perché giustamente, ma vede, il problema è questo, che si prendono troppo. Ci chiami questo Antonio Truffa? Brucio la macchina assicurandomi di aver chiuso bene le porte. Con riferimento alla Boldrini, ci chiami questo Antonio? Cosa mi ha scritto adesso? Che ti ha scritto? Sono tutti Antonio Razzi. Parenzo, se non la smetti di dire che siamo fascisti e violenti, entro la mezzanotte di stasera ti apro la faccia. Io gli ho scritto: vai, mi stai minacciando? Vieni, amico mio, vieni. No, vieni. Vieni, scritto, vieni pure. Non cambia Piazza Indipendenza 23, Roma. Piazza Indipendenza bravo, 23, bravo. Monterosa che 91, Milano. Monterosa 91. A dopo, giornale radio. Ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Corrado Augias, qualcuno ha bruciato addirittura un libro di Augias, primo per essere stato invitato alle invasioni barbariche dopo Di Battista, il grande complotto della Bignardi contro i 5 Stelle, e poi per aver detto delle cose contro i 5 Stelle, per esempio c'è uno squadrismo, sono squadristi inconsapevoli, dice Augias. Quello che hanno fatto in questi giorni in Parlamento è squadrismo, si chiama così, è squadrismo. È quello che ha detto Renzi. Io non lo sapevo, ma ha ragione Renzi a dirlo e lo dico anch'io. Sa che è ancora peggio, che è squadrismo inconsapevole. Vabbè, questi sono i ragionamenti che piacciono a Parenzo, no? Squadrismo inconsapevole. Sì, sono una bella definizione. Posso dire che squadrismo inconsapevole. Posso dire che sono ragionamenti un po' da vecchio trombone, detto con tutto il rispetto, da vecchio trombone. Tu sei greve, ma quindi... squadrismo, lo squadrismo, come che lo vuol definisci? Dire? Come hanno lo cercato definisci? Di fermare per qualche minuto i lavori della Camera. Mi sembra una riflessione fatta da un grande intellettuale, da un bravo giovane. Squadrismo inconsapevole, cioè di persone che non si rendono nemmeno conto di essere squadristi, della violenza che ogni giorno propongono. Vabbè, anche Daverio, il nostro amico Daverio, è stato attaccato dai 5 Stelle, da Grillo nel suo blog. Ma tu hai visto come continuano a minacciarmi? Te ne fregate, eh? Ma hai no, visto ma, che roba? Ma chi io ti ho chiamato la questura. Chi ti minaccia? Ho chiamato la questura poco fa. Ma, chiamato ma la questura? Sono solo coglioni del web questi qua. Intanto ho chiamato la questura. Allora, questo un tale signore che si chiama entro la mezzanotte di oggi mi spacca la faccia, ha scritto. Intanto ho chiamato la questura, poi Umberto dopo Montanari sul blog di Grillo in riferimento alla Boldrini, si chiama Umberto Montanari, ha scritto: mi farei fare una pompa dalla Boldrini, ovviamente. No, bestia, animale, Umberto Montanari. Palesati se ti chiami Umberto Montanari, palesati, chiama qui alla Zanzara. Mettici la faccia, ripeti le porcherie che hai scritto, ripetile. Animale. Attaccato anche Daverio, Filippo Daverio, perché ha paragonato Casaleggio a Goebbels, una cosa del genere. Sarebbe, in realtà non ha proprio paragonato no. a Goebbels, comunque ha evocato Goebbels, vabbè. Ho visto quel suo video che ha fatto, che si chiama, non oso nominare. Sì, l'abbiamo visto. Sì, quel suo video lì, e mi ricorda una roba che gli italiani si ricorda un poco, noi che parliamo un po' il tedesco un po' di più, ecco. Mi ricorda certa propaganda degli anni 30 che preferisco dimenticare. No, questo mi mette è così un po'... severo? Come mai è così severo? Questo mi mette un po', sì, sì, quel video lì, Gaia, è una roba che sarebbe piaciuto molto a Goebbels, anzi, se avesse potuto farlo l'avrebbe fatto lui. Sostanzialmente paragona chi ha fatto questo video alla, ai nazisti, cioè a Goebbels, cioè Casaleggio uguale Goebbels. Gli elementi, diciamo, che sono proposti in quell'Augusto video. Chi se ne frega? Chiedi a qualsiasi storia, ma perché? Ma tutto quando chi mai? Se ne frega? Ma sono delle perché cose. Ma il nazismo aveva più, aveva una nobiltà superiore, se vogliamo, era una cosa più grande. Infatti c'è una violenza moderna che non è così, come dire, col sangue delle camicie brune. Fammi sentire cosa propone il TG3 questa sera. Il TG3, mirabilmente diretto dalla signora Berlinguer. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. I 5 Stelle attaccano ancora nel mirino Boldrini e Bignardi, ma quattro senatori si dissociano. La presidente della Camera, pestaggio mediatico. Letta, da Grillo corsa senza fine verso la barbarie. Bene Renzi sul governo, andrò alle Olimpiadi di Sochi e difenderò i diritti dei gay. Se la politica risolve i problemi, Grillo si sgonfia, così Matteo Renzi che assicura non voglio sostituire Letta. Casini nel centrodestra non mi preoccupa. Berlusconi pronto a raccogliere, a riaccogliere Casini, nessuno lo attacchi, con lui si vince, ma Maroni lo gela, senza un progetto politico, Pier Resti dov'è? Allarme dell'Europa, la corruzione costa all'Italia 60 miliardi l'anno, il 4% del PIL, stop alle leggi ad personam. A Gallarate un comando assalta un furgone della polizia penitenziaria, liberato l'ergastolano Cutrine, la sparatoria per strada, muore il fratello dell'evaso. Piove su gran parte dell'Italia, il Veneto stretto tra nubi fragili e neve, in Calabria sta franando anche un tempio dorico, a Roma si contano le frane. È tornato il Berlusca in grandissima forma, devo dire, in Sardegna. Beh, si sente quando Renzi lo ha rivitalizzato, Parenzo. Renzi lo ha rivitalizzato, è tornato insieme a Cappellacci a dire le sue cose, per esempio con Toti, adesso ha un nuovo strumento lì, ha un nuovo personaggio. No, ha portato il signor Toti in Sardegna. Vabbè, questo basta prendere l'aereo, insomma, è normale, no? Beh, no, ma lui lo ha proprio rivitalizzato, ve l'ho portato qui, senti, signor senti Toti. Cosa ha detto sui gay, senti. Ho chiesto a un mio amico che da 22 anni lavorava in Mediaset di venire a darmi una mano, ha rinunciato a uno stipendio altissimo come tutti quelli di Mediaset. Ve lo presento, eccolo, dov'è? Ecco, alza, fatti vedere, no? Bravo Giovanni! Si chiama Giovanni Toti, è venuto per amor mio, ma voglio precisare che non siamo due gay. Non abbiamo dubbi. Voglio precisare che non siamo due gay. Ma chi è che dice non abbiamo dubbi, scusa? Qui è Cappellacci. Ah, ecco. Quando ritorna a parlare di gay, a fare battute, sei gay, significa che è tornato in forma, dai, è tornato smagliante, dai. È Renzi che lo ha rivitalizzato, Comunque, la novità... Amici miei, poi perché pronuncia sempre Mediaset? È l'unico Mediaset. Che pronuncia Mediaset con l'accento. Beh, l'ha fatta lui, si vede che sì, si dice così. Ma no, si dice così o no? Perché Fininvest, Mediaset. Fininvest, Mediaset. Ma, scusa, l'ha creata lui, è sua, sì, quella. È vero, potrà però... anche su questo deve intervenire. No, se di lui dice così, è il padrone. Però è strano, tutti quanti dicono Mediaset, non dicono Mediaset. Quanti, se c'è una cosa che lui sa, vabbè, è il nome della sua azienda. Si dice Mediaset. Si dice Mediaset. Comunque, ha fondata lui. Senti questa cosa del governatore della Calabria Scopelliti, nuovo esponente del partito di Alfano, nuovo centrodestra, chi vuole o no nel suo partito, sempre a proposito De Froci. Il candidato deve essere un candidato di coalizione, noi non vogliamo né uomini che non siano coraggiosi, né mezzi uomini, né uomini che magari sono innamorati di altri uomini. A noi ci piace l'idea di avere, mettere in campo uomini che siano innamorati di donne, che amino il rapporto di coppia e che individuano nel rapporto di un matrimonio un uomo e una donna. Ecco, questo è il nostro desiderio, e ovviamente quando faccio questo tipo di parallelo voglio dire che noi vogliamo uomini che siano innamorati della città. Ecco, la cosa che non ho capito, cioè non vogliono i froci nelle liste? O sbaglio? Hai capito questo anche tu? Sembra questa la lettura più adatta, diciamo. Mario da Milano. Buonasera, sono in linea? Sì, dica. Allora, niente, io volevo lamentare il fatto che si sta buttando un sacco di porcheria sul Movimento 5 Stelle. Non dimentichiamo, diciamo che un centro contributo lo danno anche loro, eh? Beh, certo, è gente ingenua, sono persone della società civile che sono entrate in Parlamento solo per sistemare questo paese schifo e che è gestito da 30 anni da politici in cravatta e guanti bianchi, ce lo sta mettendo in quel posto da tutte le parti. Sì, da ma restiamo alle cose che succedono, non ai grandi scenari politici che ce l'hanno messo in quel posto, che non sono credibili. Restiamo agli scenari di adesso. Secondo lei, a quello che succede adesso, secondo lei Grillo ha istigato la violenza contro la Boldrini? Questo voglio sapere. Grillo sì? È un comico. Grillo parla che da vuol dire comico? Un comico? È il capo di un partito. Ma non è vero, ma lo pensate voi che è il capo del partito. Lui è il mentore, è colui che ha inventato questo movimento e ha detto alla società civile, gli ha detto: ragazzi, datevi da fare, perché sennò questo paese non avrà un futuro. Questi ragazzi, giovani, tutta gente intelligente, ma che laureata, c'entra i giovani? Onesta, ci sono anche dei coglioni che sono giovani. Che restituisce, va bene, i coglioni sono dappertutto, che appunto restituisce il 50% dello stipendio, gente resta che sta cercando di rimettere a posto, vabbè, le cose in questo paese pieno di mafiosi. Ora, se uno ha un padrone, dunque a lei degli insulti alla Boldrini non gliene frega niente, ma è tutto strumentale. Ma da quando non è mica la prima volta che si insulta in Parlamento un parlamentare o una carica veramente in questo caso, in questo caso succede qualcos'altro. Comunque, Bernardo da Bari, fammi sentire Bernardo. Grazie Mario. Bernardo, buonasera signor Cruciani. Dai, io volevo chiederle soltanto una cosa. Se dimmi, il Movimento 5 Stelle non avesse fatto ciò che ha fatto, del decreto Banca Italia, avremmo saputo qualcosa? Bah, sì, se ne parlava, certo, già, non sì. È che ma tutte le trasmissioni a cui ho assistito fino ad oggi, nessuno ha mai portato a termine il discorso. È tutta una cosa No, se ne parla anche sotto sotto. E comunque anche su quello la propaganda dei 5 Stelle dice che hanno regalato 7 miliardi alle banche. Non è proprio così. C'è stato un piccolo regalo alle banche, però non è che hanno regalato cash così 7 miliardi come intendono loro, Monellacci. Beh, un ripassino di Casini ci vuole, ragazzi. Casini che torna con Berlusconi e fino a poco tempo fa diceva che era un bugiardo, uno showman perfetto, ma soprattutto diceva: beh, Berlusconi, abbiamo già dato un anno fa. Presidente Berlusconi, diciamo grazie, abbiamo già dato e credo che abbiano dato a sufficienza tutti gli italiani. Signor Casini, che bello, voce canta, audio canta. Non mi ricordavo più la voce di Casini. Non è possibile tornare con Berlusconi, senti quest'altra, è meravigliosa. È possibile che lei e Berlusconi torniate a stare nello stesso partito, un grande partito di centrodestra? No, per me non è possibile. Certo che se Berlusconi domani mattina dice che ha sbagliato, che ha capito che il suo governo è stato negativo per l'Italia, oddio, allora in quel caso tutto è possibile, ma conoscendo Berlusconi lei pensa che sarà facile questo? Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo. Senta che cosa ha detto però Berlusconi quando è sceso dall'elicottero, è andato a Milanello, tra l'altro ogni volta che va Milan vince. Ma infatti io dico che si dovrebbe dedicare di più al Milan e meno alla politica. Non lo so, però... io guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però io ci provo, ti seguo, ti curo. Dopo un triplo passo indietro, per consentire a Casini di aggregarsi ai moderati, dopo il suo no, io sono tornato a essere e sono il candidato alla presidenza del Consiglio. Vabbè, guardi, siamo su scherzi a parte, non siamo da Fazio, cioè qua siamo su scherzi a parte, ma perché io è una cosa... Ma l'ha detto lui. No, ma io capisco. Trionfo di Berlusconi, ovviamente il ritorno all'ovile di Casini, anche se lo stesso Berlusconi aveva detto Fini e Casini orridissimi, te lo ricordi? Orridissimi. Io le posso dire che ho una grande delusione sulle persone che in passato sono stati con me. Le due delusioni più grandi sono naturalmente Fini e Casini. E Tremonti? Tremonti ha delle sue idee. Tremonti è tutt'altro, non è assolutamente confrontabile con questi due. Questi due sono veramente delle persone orride. Orride. Non posso, anche peggio, orridissime. Orridissime, nella maniera più assoluta. Orridissime. Adesso invece lo accoglie a braccia aperte, sperando di vincere, il famoso 37%, 800 24 0024. Beh, devo dire qualcosa anche su Enrico Letta, lo difendo perché giustamente, nonostante le critiche delle associazioni gay, va a Sochi alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali, ma scusate, questo qua ha la candidatura ai Giochi Olimpici di Roma, che fa? Si rende nemica la Russia e altri paesi? Va alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici, come noi avevamo anticipato quando abbiamo ospitato qui Pescante, giusto? Dunque, su questo lo difendo a spada tratta, è giusto che vada a Sochi. Però, amico mio, non mi puoi intervenire dalla Russia per difendere Daria Bignardi, presidente del Consiglio, difendere Daria Bignardi e Luca Sofri. Beh, che c'è? Con tutto il rispetto. No, ha difeso un principio. Ma dai, ma che quello te ne dell'attacco, frega? Ma che te ne frega? Quello dell'attacco, ma che te è stato ne frega fatto di commentare, a una giornalista. Ma che te ne frega di commentare da socio, da dove diavolo è in Asia, Grillo e quello che dice sul blog nei confronti della Bignardi? Peraltro non lo dice nemmeno Grillo, dunque commette un errore Letta, lo dice Rocco Casalino. Cioè, siamo arrivati all'assurdo che Letta commenta Rocco Casalino. Salino, ma ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su. Se devo fare un solo commento su quello che è successo oggi in Italia, ne faccio uno solo, ma l'ho trovato talmente scandaloso che non posso non commentarlo, e cioè il fatto che ho letto di frasi folli di Beppe Grillo nei confronti di una giornalista, Daria Bignardi, nei confronti di suo marito, la corsa verso la barbarie che Beppe Grillo ha intrapreso e che sta portando avanti pare essere senza fine. Cioè, a parte che di giornalisti messi sotto attacco volendo da Beppe Grillo ce ne sono una marea. Ogni giorno uno dovrebbe intervenire. Allora, intervenga ogni giorno Letta, allora, ogni giorno. Lì dall'Asia difende la Bignardi e Luca Sofri. Dai, su, ma ragazzi, ma di che parliamo? Vabbè, ma Bignardi e Sofri, non dire, è per quello, perché dai. Sono sicuro che l'avrebbe fatto anche per Pigi Battista del Corriere della Sera, Francesco da Torino, dai, Francesco da Torino. Buonasera, dottor. Dimmi. Allora, volevo dire che sono d'accordo con Filippo Daverio e rilanciare leggiamo il testo La resistibile ascesa di Arturo Ui. No, non leggiamo bello, nessun bellissimo testo. Parenzo, mi aiuti lei? No, per Francesco, però non ci rompe lo i coglioni con queste cose da meraviglioso. Queste cose da intellettuali. Da Umberto Orsini. No, non è da intellettuali, è proprio una metafora. Vabbè, avanti, via breve però, breve. Breve, è la metafora ambientata negli anni 30 di quello che Grillo sta facendo e che Goebbels con Casaleggio. Sì, e poi ancora? Sì. Se mi fa parlare non mi fa impappinare, la ringrazio. Vada. Posso? Allora. Arturo Ui è scritto da Bertolt Brecht nel 1940. Andiamo. E ambienta a Chicago degli anni 30, la resistibile ascesa di Arturo Ui e di tutti. Francesco, poi. Se lei prosegue ancora, non ha ancora iniziato, se lei prosegue ti ha inquadrato così, la questione taglio culturale, tutto, perché... taglio tutto, avanti. Come avrebbe fatto Parenzo senza essere interrotto. Dai, su. Il discorso è importante questo. Intanto è stato messo in scena. Francesco, la sto per tagliare se non inizia. Mi dispiace. E allora inizi, spero su, avanti. Che riprenda il tema o che Daverio riprenda questa ammirabile pièce teatrale. Avanti, forza. Perché questa ammirabile pièce teatrale racconta, mutatis mutandis, la vicenda di Casaleggio, e di Grillo di oggi. Avanti. Perché? Sì, perché ambientando nella Chicago... Ma lei vuole citare questo qualche passaggio oppure sta facendo il quadro? No, guardi, lo può citare lei con un'ottima ricerca di regia. Il quadro serve per capire che con una metafora... Lei sta paragonando Casaleggio... Anche molto lei sta paragonando Casaleggio a Hitler, lei sta paragonando... No. Agevola a tutto quello che viene raccontato. Goebbels. Perfetto, Daverio ha perfettamente ragione. Casaleggio o Goebbels, benissimo. La propaganda, va bene, d'accordo. L'arte e la propaganda lo insegnano ai medici. Benissimo, Marco da Torino, grazie Francesco. Marco il nemico è la propaganda. Dica. Voglio identificare, sono un cittadino 5 Stelle. Sì. Il mio nome è Marco Savarino, segnatevelo pure. Marco? Savarino, sì, allora? Sono un padre di famiglia, sì. E volevo far capire alla gente che non è possibile che veniamo sempre tacciati di fascismo, di queste cose. Noi siamo gente che è stufa di vedere questa Italia messa in ginocchio, di appena gli viene accusato qualcosa è sassista, siamo tutti sessisti. No, lei c'era sempre con questa cosa del sesso, della Boldrini. No, su questo lei ha ragione, io credo che l'attacco di Grillo ci sarebbe stato lo stesso, cioè quel post lì sulla macchina, anche se la Boldrini fosse stato un uomo, sarebbe stato esattamente la stessa cosa. Ma una volta che c'era la Lega Nord e tutti ce l'avevano con gli emigranti, con questo e quest'altro, non si sentiva perché non esisteva il blog, ma tanto era la stessa cosa, cosa cambiava? Niente. Allora? Come non si sentiva? Si sentiva A fin fine, adesso vengono tutti tacciati, purtroppo noi adesso abbiamo a che fare con gente che ha una visibilità mediatica allucinante, sono sempre in televisione, quindi riescono sempre a... No, veramente in televisione ci vanno anche quelli dei 5 Stelle adesso, questa sera Porta a Porta, ma non è vero, ma per scelta loro. Poi oltretutto un altro punto, questa pseudo senatrice ex Movimento 5 Stelle che parla del 5 Stelle come un'impresa, e allora lei è una ditta individuale perché si è presa i suoi 18.000 euro al mese e se ne sta con i suoi 18.000 euro al mese andando avanti tutti i mesi. Fabrizio da Lucca. Fabrizio da Lucca. Sì, pronto. Dimmi. Io purtroppo mi ha anticipato quest'altro, diciamo, grillino come me, perché era quello più o meno che volevo dire. In più volevo dire che i media, specialmente da un paio di giorni che non fanno altro che parlare di attacco da parte di Grillo, quando mi pare assurdo proprio quello che dicono. Scusi, adesso lei vuole negare che ci sia stato un attacco di Grillo da Boldrini, questo non esageriamo, fa parte, secondo me parlare di eversione è una follia, parlare di stupro, di stupratori là è una follia. Quella, perché io non ho visto mai nessuno di quelli che conosco del movimento, che ma neanche anche parlare di fascismo, ma io non lo so. Ma il fascismo è un'altra roba, è un'altra roba. E poi comunque, signori miei, la questione è molto semplice. Succede una cosa che riguarda il web, che riguarda un post di Grillo, subito il presidente della Camera, boom, si fionda da Fazio. Più protezione di questa? Vabbè, ha tutto questo... il megafono possibile immaginabile. Ma magari ha sbagliato ad andare da Fazio perché è la terza carica dello Stato, questo però d'accordo. Vabbè, si può discutere all'infinito. Ma non è che sta a fare la polemica sul web, sulle sì, cose. Sì, vabbè, dai, magari su. Ha sbagliato. Dopodiché mi dici qual è... adesso qualcuno si arrabbierà. Mi dici se c'è una differenza tra minacciare qualcuno mandandogli in redazione o da qualche parte un foglio di carta con scritto quello che hanno scritto questi qui o scriverlo sul web? C'è differenza o no? Sul web esistono secondo una marea me non di c'è cose. C'è nessuna differenza, caro il signor Giuseppe Cruciani. Ma sul web c'è di tutto. Età 47 anni. Ma c'è di tutto. Non c'è nessuna differenza, nessuna. Quindi non sarà eversione, ma sarà eversione del web. Però se tu mi mandi una minaccia scritta su un pezzo di carta e me la scrivi sul web, per me non c'è nessuna differenza. Sì, nessuna. Ho capito, ma e allora basta. Arrivano milioni di cose, non bisogna precipitarsi da Fazio a protestare facendo la vittima e dicendo che ci sono potenziali stupratori. Non ha fatto intanto è la terza carica dello Stato. Può aver sbagliato perché dici va da Fazio, ci va un deputato qualunque, però questo voglio dire che vuol dire? Lei ha deciso di andare da Fazio e di denunciare da Fazio e di parlare anche di altre cose. Fermo lì. Sai che mi ha ricordato, adesso la dico grossa, la Boldrini con questa sua smania, eccetera, un po' Lotito, anzi Lotito oggi, non mi ricordo, mi ha ricordato la Boldrini, cioè va lì e parla delle minacce, solo che quella è Lotito e quella è la Boldrini. Senti Lotito, minacce di morte, la telefonata in diretta, stupendo, Lotito numero uno. Perché saputo le minacce che arrivano, che parevano ha sempre, sì, non so scherzare, ha sempre portato a che cosa? Tutti i giorni, no? Poi vengono registrate, poi ieri stagliati di minacce di morte, no? Perlomeno 50, 70, 80, non è un problema. Aspettate. Sì? Chi è? È un tifoso della Lazio, bravo. Che devo lasciare la Lazio, guarda. Ecco, che devo lasciare la Lazio prima possibile? Ah, perché non lo dici, scusa, come ti chiami? Perché non lo dici come ti chiami? Mamma mia, morti? Sì. Sei normale, vabbè, da manicomio. No, allora, quindi questo è il problema. Cioè, a un certo punto lo bravo, chiamano, lo no, chiamano, no, un tifoso lo chiama, lo minaccia, sì, di morte, gli dice vattene, sì, eccetera, e quello fa sentire, sì, tutto in diretta alla telefono. Bravo. E ho capito, quel problema è che lo dico, c'ha 6-7 cellulari che conosce, che tutta Roma conosce, dai. No, allora, è con noi l'ex responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle alla Camera, Daniele Martinelli, buonasera. Buonasera a voi, cari Volponi. Come andiamo? Come andiamo? Bene, bene, grazie. Allora, una parolina sul tuo ex collega Claudio Messora, che poi si è scusato, e che ieri sera però ha scritto una cosa. Cara Laura, rivolgendosi a Boldrini, volevo tranquillizzarti, anche se noi del blog di Grillo fossimo tutti potenziali stupratori, tu non corri nessun rischio. Dammi tanto subito l'italiano. Dammi su, vabbè, lascia perdere non l'italiano, ma chi se ne frega. Questa cosa è l'italiano che hanno scritto su Twitter, è una cosa snobistica. Uno quando scrive, questo scrive anche a cazzo di cane. Ma anche ci a me capita ogni tanto, quando allora me lo fa notare, che, quando non fare me lo il professore, non fare, no, il professore. Siccome dai, capita anche a me, quando me lo fa notare, chiedo scusa. Vabbè, ma che chiedi scusa? Vabbè, Daniele, come la definisci questa uscita di Messora? Premetto che sono d'accordo con Parenzo, l'italiano va scritto corretto, vabbè, però devo dire che vabbè, è un contributo suo da spostare il bersaglio del problema, è un modo come un altro per creare confusione, magari, che so, magari per far vedere che esiste anche lui, non lo so. Addirittura? Non troverei altre spiegazioni. Cioè gli è partito l'embolo a un certo punto alle 23.43, secondo te, dopo aver sentito la Boldrini a... Purtroppo questo è un po' il rischio di quando si ricoprono cariche, che poi, voglio dire, a livello proprio pratico non è che ci sia tutto questo potere negli uffici di comunicazione, sono gruppi di ragazzi che lavorano sostanzialmente in rete e producono quello che fanno i deputati, non è che diano un contributo su come comunicare, come parlare. Cioè che fa Messora, secondo te? Che fa? Beh, lui è a capo di questo ufficio con una serie di decide, di chi, decide chi deve andare a... Ma no, loro fanno i contributi video, fanno questo 5 Stelle del venerdì, danno un supporto insomma informativo che poi viene diffuso sul blog di Grillo, ma nulla a che vedere con, senti, la secondo te un intesa come strategia, sì, capisci? Un responsabile della comunicazione che se ne esce con una cosa del genere, che è, come dire, per carità, lui poi si è scusato, però poi dopo si è scusato ovviamente, che dice sostanzialmente non corri nessun pericolo perché sei brutta, a parte che la Boldrini non è affatto brutta. Sono d'accordo. Tu non corri nessun rischio. Che dovrebbe fare il responsabile di comunicazione? Cioè uno che ha un ruolo anche all'interno del Senato, andarsene o no? Ma dipende dal carattere. Io al suo posto probabilmente me ne sarei andato. Però voglio dire, io mi auguro che insomma sia una... Dipende poi, sai, tutto dall'importanza che gli danno i deputati, perché poi sono loro alla fine che fanno i conti con la realtà, fanno i conti con questo sistema che è contrario a loro, e dunque devono mettere in conto purtroppo anche il tweet di Messora, che viene amplificato a 360 gradi, ripreso anche all'estero addirittura. Addirittura? Da Radio Vaticana, l'ho ripreso Radio Vaticana. Ho visto prima nelle news, mi è uscito, e voglio dire, è un peccato, perché alla fine del movimento si dovrebbe parlare per ben altro. Perché per cui anche Grillo ha fatto una cazzata. Anche Grillo ha fatto una cazzata con quella roba lì, oppure semplicemente che penso? No, Grillo non ha fatto secondo me nessuna cazzata, anche perché ha postato un video tutto sommato simpatico dove non c'è nulla di violento, e la camicia nera indossata alla Boldrini di questa caricatura fa anche un po' ridere, cioè è una... No, ma infatti il video è un attacco alla Boldrini, chiaramente, per la conduzione della Camera, però insomma poi non c'è niente di particolarmente. Però, da quanto ho capito io, è un video autoprodotto da un ragazzo che poi lo ha linkato Grillo, cioè, però non scusa è che la domanda regia di Grillo. Però la domanda, Daniele, cosa succederebbe se ti trovassi alla Boldrini in macchina? Cioè, sembra una domanda che proprio ti porta a rispondere: beh, io gli emenerei, oppure io gli sputerei in faccia, eccetera, eccetera. Ma vedi, un conto è l'istituzione, secondo me, e un conto è la persona che copre la carica nell'istituzione, capisci? Cioè l'istituzione è sacra e ci si aspetta che anche le persone si comportino in maniera impeccabile. Cioè? Quando la persona perde credibilità per come si comporta, è chiaro, è normale ed è un attimo poi scendere al livello di bassa lega, purtroppo. Cioè la conseguenza di oggi, avendo a che fare con la colpa è della Boldrini, secondo te? È colpa della Boldrini, certamente. Secondo me, cioè, non ha assolutamente l'appeal per ricoprire una carica di se l'è cercata, insomma. Ma se l'hai cercata, probabilmente, sai, una che si chiude negli uffici prima di decidere cosa fare, di mettere la tagliola, che non può nemmeno metterla, cioè la dice lunga su come ha le idee chiare sul suo lavoro, capisci? Cioè, se è chiusa in un ufficio con i partiti, tranne il movimento, dopo due minuti esce, manda al voto questa, mette la ghigliottina, impedisce praticamente alle opposizioni di fare le loro dimostranze. Ma in realtà già avevano parlato della vicenda di Banca Italia, non è che... Sì, attenzione, però lì, se tutti i deputati 5 Stellati fossero intervenuti, quel decreto sarebbe decaduto, non sarebbe passato. Ho capito, però... Ok, quindi sarebbe stata una bella prova anche di democrazia, perché comunque l'opposizione usa gli strumenti, poi voglio dire, opposizione motivata, non sono cose campate per l'aria. Purtroppo sta passando invece il fascismo, cioè qui non sono abituati all'opposizione. Io vorrei capire, questi insulti, la Boldrini, se li ha un po' meritati per l'atteggiamento che ha avuto nei confronti dei 5 Stelle, questo ti voglio chiedere. Guarda, io dico che gli insulti non li merita nessuno, però purtroppo bisogna, secondo me, quando si ricoprono certe cariche, valutare anche le conseguenze delle proprie azioni, e la Boldrini probabilmente non ha ancora preso coscienza di che carica ricopre. Cioè lei le azioni che fa che sono secondo te contro il 5 Stelle, cioè lei ce l'ha proprio col 5 Stelle? Assolutamente sì, ma come ce l'ha Napolitano, ce l'ha tutto, per cui giustificano la rabbia che c'è poi sulla rete, o no? Questo vuoi dire? Ma poi la rete si sa che è una grande arena dove tutti si sfogano, ormai tutti possiamo pubblicare, possiamo scrivere. Che lei sia andata direttamente da Fazio così spedita? È stata una cosa molto grave che la terza carica dello Stato vada a dire, dia già una sua sentenza sull'impeachment preparato da questi ragazzi, peraltro secondo me molto ben motivato. Che un Parlamento avrebbe, secondo me, motivo di valutare tutti i motivi elencati, che sono tanti, del comportamento di Napolitano, senza arrivare alle intercettazioni con Mancino, ma anche per molto meno. E alla fine succede che... No, però è vero... Con la sua sentenza da Fazio ha già dichiarato che le Camere bocceranno quell'impeachment. Però è vero, Parenzo, questa cosa qua. Io sono convinto che l'impeachment sia totalmente campato in aria. Ma l'impeachment però, è una procedura politica, no, però, non c'ha nulla però di... la Boldrini non è che può dare un giudizio anticipato su questa roba qua. Non può dare certo né un giudizio anticipato. Ma qui state spostando la questione, però anche l'amico Martinelli sta... Cioè la questione che cos'è? Quelli non che, è questa, quelli che scrivono la metto non a pecora, andare la, da metto, la metto a pecora e poi le fotto il culo, questo è il problema. Oh, bravo, finalmente. Ho capito, ma quelli che scrivono queste robe qui, quelli che scrivono le spaccherei, c'è, sì, magari le piacerebbe pure entrare nell'auto del suo lavoro, eccetera. Fine questi della discussione, non si può lo possono fare comunque. Ma io vi posso dire una cosa, io dico che chi scrive su internet dovrebbe capire che in quel momento pubblica al mondo, certo. E quindi deve rendersi conto che si deve responsabilizzare. Se io scrivo un insulto a chi che sia la Boldrini o che sia uno spazzino, con tutto il rispetto, mi devo valutare le conseguenze della mia azione. Lo scrivere nero su bianco comporta purtroppo delle conseguenze, e anche per fortuna. Quindi io sono d'accordo, io non sono d'accordo per la rete libera dove tutti devono dire tutto di chiunque, sono d'accordo invece per... affinché... Ho capito, Daniele, però se uno vuole querela, c'è nome e cognome, oppure uno può rintracciare il nome, punto e basta. Certo. Però voglio dire, che cosa ci stupisce oggi? È arrivata la Boldrini lì alla telecamera, ci sono delle cose che possono, no? Possono rappresentare sono dei potenziali stupratori. Potenziale stupratore. Sì, è una follia architettata per spostare l'attenzione sullo svuota carceri, su quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto in questi ultimi giorni. Ma questo non lo so, ma potenziali stupratori non è che si firmano, ragazzi, quelli che vogliono stuprare non è che si firmano su internet dicendo questo e quest'altro. Ma con una frase così la Boldrini si qualifica da sola, non c'è bisogno di come si qualifica? Come si qualifica nel peggior modo possibile, cioè non abbiamo mai avuto un presidente della Camera così, cioè poi voglio dire, è possibile che i partiti non abbiano preso posizione? Cioè la terza carica dello Stato deve essere, è una carica super partes, deve prendere le difese di tutti i gruppi parlamentari rappresentati. Qui questa qua si schiera con i partiti, va da Fazio a parlare male del movimento, dice di questa roba qua e dice che praticamente sono... E gli altri stanno zitti, un attimo solo e torno. Ehi, ciao ragazzi, ti voglio bene, ciao. Ciao tesoro. La notte mi consuma, mi rende isterico. Allora, cosa accade? Accade che Rocco Casalino, ex Grande Fratello, persona che conosce molto bene Daniele Martinelli, io dico ex Grande Fratello per inquadrarlo, mica per denigrarlo. È ingegnere, attacca Daria Bignardi perché... durante questa intervista con Di Battista dei 5 Stelle venerdì ha evocato il fascismo del padre. Io devo dire la verità, ho visto la trasmissione 40 volte perché l'intervista al padre l'abbiamo fatta noi nel 2010. L'unico errore che ha commesso la Bignardi, ma secondo me perché le hanno passato male l'informazione, cioè è non aver detto esplicitamente che quell'intervista era stata fatta 3 anni fa, 4 anni fa, che, cosa che cambia evidentemente, no? Perché cambia? Sì. Beh, un po' cambia, perché Di Battista adesso, il padre è tra l'altro un attivista del 5 Stelle, e poi sì, ha insistito, ha fatto 2 o 3 domande a Di Battista, non la mette in imbarazzo il fatto che suo padre si dichiari fascista, che gira in camicia nera, ma non mi pareva una cosa particolarmente offensiva nei confronti di Di Battista. E oggi c'è questo attacco di Casalino alla Bignardi in cui dice ma che cosa accadrebbe se lei andasse in televisione e le chiedessero... Com'è che ha scritto? Di come si sente tuo figlio a scuola ad avere il nonno mandante di un assassino? Com'è l'aver sposato il figlio di un assassino? Vabbè, Martinelli, mi sembra che sto Casalino ha esagerato con sta roba, o no? Ma guarda, lascia il tempo che trova, non lo so, io non do molta importanza, perché alla fine la Bignardi, io ho visto la trasmissione, vabbè, sarà una conduttrice del sistema, come dicono loro, e va bene, però alla fine l'intervista mi è sembrata buona. Ma sì, nel senso che non mi pare, non mi pareva, anzi. Mi è sembrato che Di Battista se la sia cavata da solo, peraltro Di Battista è uno dei deputati più sanguigni, certamente anche più con questo dono da leader, no? Sì, ma può fare il premier, come dice. È un ragazzo verace, secondo me sì, avrebbe tutte le qualità. Addirittura, perché, pure secondo te può fare il premier, come dice lui? Sì, sì, assolutamente, perché è veramente un ragazzo veramente d'oro. Il premier di cosa? In quei 3 mesi che sono rimasto lì, devo dire, beh, premier comunque. Premier è di Grillandia? È uno, il premier è uno nel web? Deciderei. Il premier di Grillandia? Come si chiama il paese di Grillandia? No, no, come si chiama? Attenzione, qui cioè, si tratta, io poi magari non lo farà mai il premier, ma avete fatto una domanda. Io piuttosto che avere Letta che mi fa cadere il latte alle ginocchia, preferisco avere Di Battista. Meglio Di Battista di Letta. Parezzo, tu sarai contento. Letta può essere legittimo. Questo quello che dice Martinelli è legittimo. Questo è un giudizio legittimo, che me ne frega, a me mica devo difendere Letta. Quello che non è legittimo, che dice Martinelli, secondo me, è minimizzare quegli insulti e quelle violenze, perché sul web c'è violenza. La rete è violenta, ma io non capisco, perché non c'è nessuna ma come, ma va? Ma è anche violenta, anche no, è molto violenza. Martinelli, scusami, ci vuole Parenzo. Molto negli anni 70 c'era, ma è violenta poco. Nelle parole, ma non succede nulla, poi uno che vuole davvero picchiare o stuprare la Boldrini, non è che lo scrive, e dai, chi scrive sui muri? Esatto. E chi andava con bravo, guarda che Cruciani. È molto, ma è Martinelli è molto più coraggioso, è più coraggioso prendere lo spray e andare a scrivere sui muri morte al fascio, ad esempio. Quello ci vuole coraggio. Ma è la stessa cosa. No, no, perché se tu a scriverlo sui muri ti prendi anche una legnata se ti beccano, invece sul web a casa nella tua poltroncina davanti alla televisione col caffè caldo dici oh, adesso insultiamo la Boldrini, prendi il tuo iPad e cominci dalla casa tua comodo sulla poltrona però digitale. Io parto da un concetto molto breve, Vigliacchi. No, io parto, dico una cosa molto breve, dico che chi vuole far violenza la fa, capisci, non la sta a scrivere. Ti viene, ti segue, ti pedina e ti prende, ok? Poi il fatto che ci sia questo sfogo ai peggiori istinti è normale che succeda, purtroppo il web è una platea. In questi ultimi anni. Ma il grillo istica la violenza, come dicono alcuni. Istica la violenza. Abbiamo imparato a spostare la nostra percezione dell'impressione. Cioè, anni fa era impossibile vedere certe scene, oggi se vai su web, su YouTube, vedi Saddam Hussein che si impicca, cioè è diventato normale, c'ha 40 milioni di click, capisci? Vuol dire che il web ha anche evoluto in questa direzione, secondo me. Ma istiga la violenza Grillo Ma no, ma Grillo, guarda, io ti dico, i simpatizzanti del 5 Stelle, ce ne sono tanti incavolati, ma sono tutte persone che, venendo dalla rete, sono mediamente culturalmente hanno una cultura più elevata rispetto al televisionario puro, no? Che si beve i telegiornali e basta. Per cui stai non dicendo è che i militanti del 5 Stelle ne sanno di più degli altri? Guarda, io sono pronto a scommettere che tutte quelle violenze, tutte quelle frasi scomposte, brutte, nessuno è militante del 5 Stelle. Sono di gente, di troll pagati dai partiti che vanno lì perché poi fanno un fermo immagine. No, dai, troll, no. Sì, no. Sì, perché non hanno appigli per attaccare Grillo. Ma ti pare che i partiti in Italia si mettano a fare i troll? Non sono capaci manco di andare su, di fare un sito, creano i troll contro 5 Stelle. E con 48 milioni di rimborsi vuoi che non abbia qualcosa da dare a qualche troll? Cioè, secondo te il PD paga i troll per dare un'immagine al 5 Stelle come di violenti e stupratori? Con la disoccupazione che c'è, sì, secondo me non mi meraviglierei se lo facesse. La teoria, non hanno appigli, ma anche il PDL è uguale, cioè non cambia niente. Ma PDL, ma quella è rimasta a Gogol, ma che ti pare possibile che organizzano una cosa del genere? Dai, i partiti, su. Secondo me, farebbero qualunque cosa per fare in modo di far scendere la popolarità del 5 Stelle. E poi questo non ti so dire se si tradurrà in voti. Quello che sento io dalla mia parte, la gente che mi conosce o che sento sostanzialmente delle sintomi di approvazione. Qualcuno che dice qualche volta c'è un po' di caos, un po' di confusione, ma si sa che è orchestrato. Ma che cos'è questa roba della programmazione neurolinguistica con questo semidissidente catalano che dice che Casaleggio ha mandato dei consulenti per il lavaggio del cervello? Questo dice in sostanza. È una roba nuova anche per me, non lo so se, se saranno persone evidentemente specializzate in comunicazione che manderò lì magari a qualcuno. Non ne sai nulla? No, io personalmente no. Ma bruciare i libri è una cosa normale, una butade, oppure è una roba che si può fare? Cioè non c'è nessuna violenza anche nel bruciare i libri, come qualcuno ha bruciato il libro di Augias, anzi chiamiamo quello, va, sentiamo. Ma guarda, io vorrei tanto chiederlo all'autore di chi l'ha bruciato. Io, cioè, è una cosa che non ho mai fatto, però vedi, alle cose do il peso che si meritano. Ognuno, sai, guarda con i propri occhi e fa la propria valutazione. Io di fronte a un libro bruciato non è che provi chissà che, cioè francamente non ci vedo, cioè Augias chi? Cioè voglio dire, chi è questo qua che sai che i nazisti bruciavano i libri? Uno che fa Repubblica, che è un politico di vecchio stampo che vuole un po' di visibilità e quindi fa. Ma guarda Martinelli, che il rogo dei libri lo facevano i nazisti, è il rogo dei libri. Ma sì, ma anche Calderoli ha fatto il grande rogo delle leggi qualche anno fa. Beh, vabbè, quello era una cosa diversa, allora, il rogo delle leggi, no? Stupide. Augias vi ha dato degli squadristi, Anche Calderoli, allora che anche la Lega è nazista, cioè cosa vuol dire? Augias gli ha dato degli squadristi, quelli dei 5 Sì, ma Augias lascia il tempo che trova, ma chi se ne frega, cioè voglio dire... Vecchio trombone, dici tu. Non cambia la realtà dei fatti, capisci? Cioè Augias cerca la sua visibilità. Ma che gesto è bruciare un libro di Augias, Martinelli? Che gesto è? Ma è un gesto da codardi, un gesto da infami bruciare un libro. Ma magari può essere, io non gli do così importanza, Parenzo, anche perché io sto facendo un ebook adesso, quindi... Ma i gesti hanno un... sono... vabbè, questa la butti in cacciara, giustamente, perché... Ma perché Cruciani adesso è anche giusto bruciare i libri? Ma no, ma figurati, uno ha comprato il libro di Augias e per fare il coglione ha bruciato il libro di Augias. Chi sti cazzi? Non è che hanno fatto. Perché bisogna liquidare tutto? Ho capito, ragazzi, però non è che si sono. È un attivista di Zagarolo dei 5 Stelle. Va benissimo, è un deficiente. Perché offendi Zagarolo? Perché adesso offendi pure Zagarolo? No, ma non devo offendere. Io vorrei che gli abitanti di Zagarolo, che ci ascoltano tantissimi, peraltro, quegli amici di Zagarolo. Ma no, ma Fiumico, detto perché. Venissero sotto la sede del Sole 24 Ore a Viale Monterosa e ti facessero capire. È per far capire. Io non vedo perché bisogna associare un gesto a un simbolo. Uno può essere che legge il libro di Augias o semplicemente perché ce l'ha lui gli brucia, e lo brucia. Non vuol dire che gli voglia fare del male fisicamente, ma quello, cioè, no, quello, ma no, ci mancherebbe altro. Simbolo, capisci? Siamo al simbolo, ma i nazisti bruciavano i libri per distruggere la memoria, perché, cioè, perché ve li consideravano libri nemici. Perché Augias se le cerca? Quando un uomo è così anziano e baratta la sua saggezza per un piatto di lenticchie, secondo me, capisci, questa cosa la capisci se hai 40 anni, se ne hai 20, le sue idee, dice baratta. Ho capito, però Augias è andato a Bignardi a dire quello che pensa sui 5 Stelle. Sarà padrone di dire che siete squadristi, no? No, io non... Squadristi, cosa vuol dire squadristi? Lì uno conta uno e poi certo, come in tutte le relazioni umane, ci sono dei contrasti, ma è normale che sia così. Però lì l'importante è che facciano il loro dovere, l'importante è che... Sì, d'accordo, cioè non ha diritto di Augias di andare in televisione a dire che siete squadristi. Certo che ha diritto, come ha diritto quello di Zagarolo a bruciargli il libro, dov'è il problema? Ma capisci, cioè, come dov'è il problema? Non ci vedo il divieto. Ma non capisci, ci vedo lo sfregio? È uno vabbè, no, sfregio. Ho capito, ma uno sarà padrone pure di bruciare un libro di Augias oppure è proibito bruciare il libro di Augias? Scusa, ho detto che è ovvio che non è un reato, ma anche tu perché sei così sciocchino? Ma non è ovvio che non è un reato, stiamo discutendo sull'escalation di violenza. Vabbè, che c'è dato nel modo quello, di fare quello gli ha dato dello squadrista, hanno protestato perché l'intervista veniva quello di Battista, ha trattato male le 5 Stelle, c'è uno che ha deciso, vabbè, io il libro come di all'epoca del nazismo che facevano i roghi dei libri proibiti, ma quello lo facevano le istituzioni. Ragazzi, i nazisti stessi, dai, la violenza più grande sapete qual è? Secondo qual è? Me qual è? Che nessun partito prende posizioni nei confronti della Boldrini. 4 anni fa, quando Fini fondò il Futuro Libertà e si oppose al salvataggio di Cosentino, imputato di Camorra, il PDL chiese le dimissioni del Presidente della Camera perché aveva perso la terzietà. Ma non ho capito, chi è che dovrebbe prendere posizione contro la Boldrini? Il PD urlò alla sacra potere della terza carica dello Stato che deve garantire anche le minoranze. Sì. Oggi che il Movimento 5 Stelle, che rappresenta il 25% dei cittadini, viene criticato e viene praticamente sbeffeggiato, insultato dal Presidente della Camera. Esatto, quindi delegittimato. Tu dici nessuno dei partiti, perché sono tutti uguali, osa prendere le distanze. Ti pare normale? Beh. Perché con Fini sì e con la Boldrini no? È un po' Forza Italia, però... Guarda che è grave sta cosa. Questo sì che è violenza. Questa è violenza strisciante. Cioè, è peggio l'atteggiamento della Boldrini nei confronti dei 5 Stelle che gli insulti che riceve. Più grave. Assolutamente sì, perché la Boldrini rappresenta un'istituzione, un potere, rappresenta una nazione, è la terza carica dello Stato. Capisci? Cioè, non è l'ultima improvvisata. Ho capito. Ciao, ma Daniele, grazie. Buona serata. Ciao, ciao. Buona serata. Grazie, ciao. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove stiamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Ma andateci voi in mezzo ai croci, ma che mi importa a me? Non ho capito perché ci devo andare io. Io non so, ma un dibattito se lo facciano tra di loro, il dibattito, e si dibattano quello che vogliono. Io non ho bisogno di dibattere nulla. Queste sono cose che mi fanno da sempre schifo, purtroppo, non riesco ad essere diverso e basta. Se la normalità è quella che tutti quanti conosciamo, la loro è anormalità. E va bene, se per voi sono normali, tenetevi. L'animale va benissimo. E il gay non va bene perché non va bene. Intendiamoci, sempre tenuto conto delle eventuali sue manifestazioni esibizionistiche di cui abbiamo più volte parlato, tipo gay pride, eccetera. Poi del resto, se stanno a casa loro e si fanno i cazzi loro, a me non me ne frega niente. Il professor Carlo Taormina. Daniele da Bologna, buonasera Daniele. Daniele? Salve, mi sente? Dimmi. Sottoscrivo parola per parola quello che la Cosa? Persona che mi ha preceduto prima. Chi? Rimarco, Daniele, non so. Martinelli, sì, allora? Sì, rimarco che la Boldrini dovrebbe dimettersi immediatamente perché rimarco, ha finalmente sì. dichiarato di. Di? Di aver perso il ruolo di imparzialità. Niente. Poi? Ma sì, che ha ufficialmente dichiarato di aver perso il ruolo di ufficialità? Ma di che stiamo parlando? Cioè, un attimo. E poi l'altra cosa è registrata dalle forze di polizia. Mi dica? Presidente? Sì. Sono Cruciani, come stai? Ti disturbo? Un attimo soltanto. Sì. Attimo. Presidente di che? Presidente? Può aspettare un attimo? Sì. Pronto? Sì, no, sono Cruciani dalla radio. Un attimo soltanto. Non è un tifoso arrabbiato, eh? Ma dove sta il presidente? Può richiamare tra un attimo? Sì, tra quanto richiamo? Dica che è Cruciani dalla radio, eh? Sì, aspetti, che sta con... Sì, aspetti un attimo. Sta concionando. Sì, aspetta un attimo. Ma da quanto tempo sta al telefono? Richiamo io, che dici? Richiamo? Claudio Lotito, Pronto? Niente, dai. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Gaetano, provincia di Bari. Sì. Dovrebbe essere soppresso. Gaetano, che vuoi? Volevo innanzitutto chiedere se posso darti il tu, perché... Sì, dimmi, dai. Sì, niente. E il permesso come un fratello, perché ormai da tanti anni che ti seguo la pensiamo... modo su tante cose, però ultimamente mi è un po' stupito la tua metamorfosi su 5 Stelle. Ma non c'è nessuna metamorfosi, ma voi per questo hai cambiato. Ma chi mi ha pagato? Chi mi ha pagato? È dubbio che mi assale, perché aspetta un attimo, aspetta, pronto? Pronto? Vai, adesso... aspetta un secondo, Gaetano. Vabbè, Gaetano, allora? Allora, sto dicendo, non capisco la tua metamorfosi su 5 Stelle. Ma non c'è nessuna metamorfosi. Ma non c'è nessuna. Ma voi siete allergici? Aspetta un attimo. capisce. Vabbè, parla da solo. Voi siete allergici al fatto a considerare, le persone, come dire, come esseri pensanti, oppure ce la fate ad arrivare? No, scusami, innanzitutto voi, noi non sono 5 Stelle, chiaramente abbiamo votato per i 5 Stelle, ma lo farò la prossima volta. Vabbè, Gaetano, lei può fare quello che vuole nella vita. Io non ho cambiato nessuna opinione perché non ho le opinioni scolpite sulla pietra. Quando uno dice una cosa... Anch'io. E allora? Per questo mi piacevi. Vabbè. Antonio da Milano, fammi sentire Antonio da Milano, dai, Antonio. Sì, pronto? Dimmi, dai. Buonasera. Volevo solo dire che con tutto quello che succede in Italia volevo dire anche la mia. Ho lavorato nella Camera dei Deputati per 5 anni in nero. È denunciato, spero. E allora? No, volevo dirlo, siccome all'interno della Camera dei Deputati tutti quelli che parlano, deputati, onorevoli... la sanno sempre dire lunga, la sanno sempre dire bene, volevo dire questa, cioè io ho lavorato in biblioteca a San Macuto per 5 anni, entravo tutte le mattine regolarmente con un tesserino rilasciato dalla Camera dei Deputati e alla fine le dico ho lavorato in nero. E per chi? Per conto di chi ha lavorato in nero? Ma era un'azienda che ha preso l'appalto in biblioteca e lo denunci? Non è che lo dice, guarda, lo posso dire tranquillamente. Non ma c'è scusi, problema. Qual è il problema? Non ho capito. Lei ha lavorato in nero. Va bene, alla Camera non si dovrebbe fare. Lei era alle dipendenze di chi? Di un deputato, di un senatore? Di chi? No, era un'azienda esterna. Ma che, cosa diavolo ce ne frega dell'azienda esterna? Non che... frega niente. Ma non me ne può fottere di meno. Cioè, nel senso, qual è il problema? Risolva i suoi problemi con questa azienda che ha preso un appalto esterno. No, io non è che voglio fare. Cioè, io non voglio fare. Ma allora perché ce lo racconta? Perché ce lo racconta? Perché comunque è assurdo che all'interno della Camera dei Deputati ci sia stato questa cosa. Non era solo io. Ma che ne sapeva la Camera, però? Ho capito, ma se la prenda con l'azienda che ha ricevuto un appalto dalla Camera e che evidentemente non ha regolarizzato il suo lavoro. E vabbè, d'accordo, lei ha preso i soldi in nero per 5 anni. Cosa vuole che faccia causa se la prende con questa azienda? Ma scusi, perché ci viene a raccontare quella cosa? Ma no, ma era per dare un segnale di quello che comunque succede non solo fuori dalla Camera dei Deputati, anche dentro. Ma non era la Camera che la pagava in nero, era un'azienda che lavorava con la Camera. Vabbè, una cazzata ha detto, dai, palese, Nicola da Pescara. Eravamo in 20, lei dice era palese, anche alla Camera. Va bene, Nicola da Pescara. Ciao, buonasera, sono Dimmi. Un paio di cose veloci. Ma è sicuro che gli italiani siano scandalizzati dal casino fatto dai 5 Stelle in Parlamento? Perché sembra che con la TV, guardando i servizi in televisione, passi questo principio. No, gli italiani sono felici, finalmente qualcuno ha mandato a fare in culo questi quattro tromboni che hanno rotto le palle con il loro perbenismo da due soldi, tutti affettati, tutti precisini, li hanno mandati a cagare, hanno fatto bene. Io di violento, Cruciani, ho visto una sola cosa, una gomitata di un questore o ex questore, solo quello c'è stato di violento. Le stronzate del web sono tutte cagate, io non sono di 5 Stelle, sono cittadino normale. Ma io sono d'accordo con lei. Ma tra l'altro un'altra cosa incredibile è che il presidente della Camera, andando da Fazio, non ha accolto un'opportunità, tra l'altro cosa sbagliata, sono d'accordo, di esprimere la solidarietà verso il deputato di 5 Stelle malmenato in una maniera brutale, vigliacca. Ma quel personaggio, quel questore adesso cosa farà? Ci sarà un procedimento penale? Comunque una cosa è vera. Ma scusate, ma questa Camera e questo Senato fino adesso, ma che cazzo hanno fatto? Cosa hanno prodotto? Hanno convertito in legge un po' di decreti, hanno fatto qualche disegno di legge. Mille ritardi, mille cose. Ma certamente non hanno fatto tutto quello. Ma certamente non hanno fatto tutto quello che potevano fare. Questo non c'è dubbio. Ma non è che lo scopriamo oggi. Mille cose. Ma non è che lo scopriamo. Ma siete degli ipocriti. Procedure burocratiche assurde, lunghissime. Ma è tutto vero, dai. Ma non è che lo scopri oggi e quindi legittimi questo clima. Non sto legittimando nulla. Ma certo. Ma quale clima? Ma che sta dicendo Panes? Ma quale clima? Hanno fatto un po' di casino per fermare un decreto. Hanno fatto un po' di casino. Adesso sulla legge elettorale fanno casino nelle commissioni. Hanno fatto un po' di casino. Bene. Punto e basta. Posso dire una cosa, Cruciani? Una cosa sugli epiteti e le offese. Ma che è versione quella? Aspetta, no, una cosa. Ti ricordi quando Battiato ha detto qualcosa del genere delle donne? Le puttane in Parlamento, sì. Ma non l'hanno demonizzato. Grillo adesso è un criminale, la violenza sul web. ma andassero a cagare, qualcuno glielo deve dire a questi vecchi tromboni che non sanno fare un cazzo, sono anni che scaldano poltrone, prendono soldi, glielo diciamo insieme, non sapete fare un cazzo, andate a fare in culo. Grillo ha ragione, stavolta lo voto pure io. Buonasera a tutti. Rita da Pordenone, buonasera. Sì, buonasera, il signore che mi ha preceduto ha espresso già i miei concetti, comunque io chiamo perché sono indignata, perché dovunque, in televisione, alla radio, si sentono sia i politici di destra e di sinistra condannare lo squadrismo, il fascismo, la volgarità. Allora io mi chiedo una cosa, ma è più violenta una battuta infelice, una buttata, o è più violento l'atteggiamento di quei due campioni di democrazia che hanno elaborato una legge elettorale e ci vogliono far credere per ipnosi che è la cosa migliore che potessero fare quegli italiani? Secondo me è più violento il loro atteggiamento che magari queste, appunto, questo tono volgare, violento, come si sente dire. È come distogliere, farci guardare il dito e non la luna. I problemi veri sono da un'altra parte. Queste saranno, sì, delle cose da condannare. Cioè lei dice che tutte queste robe qui, le cose scritte su Twitter... È una campagna mediatica per distogliere, sì, l'attenzione dai problemi veri. Va bene, Francesco da Foggia, Francesco. Buonasera Cruciani. Niente, la signora mi ha preceduto. Praticamente volevo dire la stessa cosa. E comunque rimane il fatto che fare queste argomentazioni, fascismo, squadrismo, tutte queste cose qua, sostanzialmente è perché mancano gli argomenti. Mancano gli argomenti, non hanno argomenti validi per poter discutere e per poter spiegare quelle che sono le loro scelte. La Boldrini è di parte, Napolitano è di parte. Attaccare i 5 Stelle farà soltanto crescere il movimento, solo questo. Bah, vediamo, vediamo, vediamo. Bellissimo, bellissima canzone, finalmente si è cambiato colonna sonora, faccetta nera, bellissima canzone imperiale, ma l'Armi San Fascisti è altrettanto bella, forse anche più rivoluzionaria e adeguata a questo Parlamento. Barone Nero, candidato, sembra, sarà pure alle europee, vedremo, Roberto Ionghi Lavarini, che però, buonasera Lavarini, ha, sì, una, buonasera. Ha una sua particolarità, sembra che conosca il padre di Di Battista, è vero Lavarini? Che ma no, beh, lo, nell'ambiente della destra politica italiana lo conoscono tutti come un bravo camerata, un bravo attivista e dirigente della destra radicale del Lazio. Ma addirittura, addirittura. Sì, sì, sì, ma che bella compagnia. Un ottimo, un vero patriota e ha cresciuto abbastanza bene il suo figlio, insomma. Ma perché lei è, non mi dica che è grillino distrutto adesso. Di Battista è no, minuti. No, non grillino, ma sicuramente il figlio ha fatto anche una degna figura dalla compagna Bignardi. Addio, ma io Lavarini, lei mi sta diventando no grillino di più. Eh no, ma sa che sono un nero, cioè, trasversale. Tra voi della destra, diciamo, estrema, della destra patriottica e i grillini c'è qualcosa in comune allora, o no? Beh, indubbiamente Grillo, il Movimento 5 Stelle è un fenomeno nuovo, trasversale. Quindi, come tutti i fenomeni nuovi, trasversali e rivoluzionari, è molto al suo interno, ha diverse anime, diverse sensibilità e ha preso tante battaglie della destra, come quella contro il mondialismo, sì, il signoraggio bancario, la partitocrazia, la plutocrazia. Scusi, Lavarini, sono le storiche battaglie della destra. Scusi, Lavarini, ma anche Grillo le porti avanti. Lei mi conferma, il padre di Di Battista, lei mi conferma, lo tratta è come fascista. Cruciale, lo tratta come un è un bravo caverazzo ed un bravo patriota che si è sempre speso per le sue idee e per la sua comunità nel Lazio. Un vecchio, un vecchio fascistone, dai, si può un dire. Bravo camerata, bravo camerata. Non è tantissimo, non è neanche tanto vecchio, insomma. Beh, un insomma, bravo camerata. Ma anche adesso, dico, no? Adesso è diventato un po' grillino, però resta comunque... Giustamente sostiene il figlio, ma lui lo vorrebbe un pochino più inquadrato a destra. Del resto, insomma, se non ci fosse stato Grillo, qui avremmo un fronte nazionale, un'Alba Dorata al 10-15%. Ma a lei piace Alba Dorata, Lavarini? Un attimo solo, che c'è la borsa, torniamo subito. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, ma poi invece sa boccia. Sa brucia proprio addosso a me. No! Oh, sleeping with mosquito. Oh, sleeping with mosquito. Oh, sleeping with mosquito. Barone! Buonasera, eccomi. Roberto Ionghi Lavarini, detto il Barone Nero. Allora, voglio sapere da lei, se lei si trovasse in macchina con la Boldrini, cosa accadrebbe? Pronto? Pronto, presidente? Sì, sono... eccomi, mi dica. No, Lotito. Cercavo il presidente Lotito. Beh, mi dica. Me lo passa, sono Cruciani. Cruciani, grazie, aspetti. Sì, aspetti un attimo, Sì, sì. Che qua stanno tempestando le telefonate. Lo so, per sta storia qua, di questo qua, no? Ma chi è? Che è stato? Come, cosa è successo? No, dice che adesso lui ha parlato dicendo che non voleva insultare, non voleva aspetti, insultare attimo, nessuno. Aspetti, sì. Aspetti, aspetti. Ah. Presidente? Sono Cruciani, ciao, come stai? Pronto? Sono Cruciani, Radio 24. Ma no, io non ben... no, no. Presidente? Che vuole? No, sono Cruciani, Radio 24, volevo chiederti di questo qua che delle telefonate. Ma lasciami questi qua, ci sono 300.000 telefoni. Ma chi sono questi che ti chiamano? Questi che pseudotifosi, no? Perché no. Uno che fa così, minacce di morte, ci sono 300.000, stato tutte registrate dalla polizia. Ma lui ha detto che non ti voleva minacciare, questo ha detto oggi in un'altra... Ma lascia, ma non è una, ne sono arrivate 200.000, che ne so se è quella. Cioè, ma... 200.000, in quel momento ne sono arrivate 7-8. Ma come fanno a avere il numero tuo, scusa, questi qua, questi tifosi? Capisco i giornalisti come noi. Dimmi a chi gli ha dato il numero, non certo io gli do i numeri. E no? Chi glielo dà il numero, dici? E poi io lo tengo, pure so. Vabbè, sono problemi loro, dai, chi gli ha dato? Intanto sta roba poi se ne verrà a capo, qualcuno lo dirà chi gli ha dato. Vabbè, scusa un attimo una cosa, ma perché ti rompono i coglioni per questa storia di Hernanes e i tifosi? Non capisco, te hai preso i soldi, eccetera, l'anno scorso, l'anno successivo si liberava, chi è che ti rompe le palle su questo? Lo vedremo, lo vedremo. Lo vedremo. Bene. Vabbè, ma dimmi, che tipo di minacce ti arrivano, presidente, dimmi. Ma che te lo dici? Niente. Al telefono? Che fa l'autorità giudiziaria? Te. No, ma figura, che c'è l'autorità giudiziaria? Allora basta, grazie. Ciao, presidente, ciao, ciao. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Che fai l'autorità giudiziaria? Che gira, che ronza, va zonza. Ne arrivano 300.000 delle telefonate. Vabbè. Barone, in macchina con la Boldrini, che faresti? Ma chi gli fai domande normali? Non la fai salire sulla mia macchina, non c'è motivo per farla salire. Solo, potrebbe salire solo abusivamente, la scaricherei al primo angolo di strada. Vabbè, non essere pure te così come quelli che scrivono su internet. Ma sono dei goliardi, per qualche battutaccia d'osteria. Ma dicono, alcuni dicono che la vogliono stuprare, vogliono fare sesso in maniera pazzesca, vogliono... ma secondo me alla fine lei è contenta, ma detto questo... Ma com'è contenta? Io penso che al di là delle battutacce dei ragazzi grillini, com'è la gente ne ha piena le scatole di questa politica. Vabbè, e, di questa, e di questi rappresentanti politici, da pieni le scatole di Napolitano, della Boldrini e di tutto il sistema, quindi sicuramente meglio i grillini del sistema. Cioè meglio quelli che la insultano su internet della Boldrini? Assolutamente sì. Meglio una goliardica battuta rispetto a quello schifo che ha fatto la Camera dei Deputati. Perché la cosa che deve scandalizzare gli italiani non sono le battute più o meno infelici, più o meno simpatiche dei grillini, ma devono essere quello che ha fatto questo Parlamento, che ha svenduto la nostra banca. Ho capito. Che ha svenduto la banca, non è così, non è la così. Banca d'Italia ai privati, che Barone. Ha regalato nostri miliardi a banchieri privati. E la cosa più ridicola, veramente ridicola e penosa, è che il nuovo PD di Renzi applaudiva cantando Bella Ciao. L'hai sentito? Dopo che la Camera ce l'ha messo in quel posto, l'ha messo in quel posto a tutti gli italiani, alle famiglie, alle imprese italiane, perché ha regalato i nostri soldi ai banchieri privati. Ho capito, però Barone, hai sentito quel Bella Ciao che risuonava alla Camera? Mamma mia, ho avuto veramente un conato di vomito e purtroppo ho dovuto... Cantiamolo un po', Parezzo, così facciamo qualcuno poteva fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Oh, bravo Barone, gli onghi lavarini. Quando ha finito di dire puttanate ci ritelefoni, grazie. Barone, oramai sempre più italiani la pensano come noi. Io voglio dire questo, caro Cruciani, per lei e per i suoi amici. Perché lei fa domande normali al signor Ionghi? Con la propaganda sta con i forconi, sta con Grillo, perché manca una grande destra nazionale popolare, che è quella che manca in Italia, che dobbiamo cioè, manca lui, però manca Mussolini. Attenzione, però manca un carisma, manca un personaggio carismatico, Yonghi, in quest'anno però... è assolutamente vero. Dai, su. Ne nascono veramente sì. pochi. Non c'è dubbio, la destra ha tanti carismi locali, ma non ancora una grande riconosciuta a livello nazionale. Un nuovo Mussolini. Questo, meglio i grillini che protestano e fanno casino che questo Parlamento, ma che lo questo sa che governo cosa... che ammazza di tasse le imprese e le famiglie italiane. Vabbè, però Barone, meglio Beppe Grillo e le sue castronerie che questo sistema. Barone, lo sa che cosa hanno scritto sulla Boldrini? La metto a pecora e poi eccetera, eccetera. Ognuno ha i suoi gusti. Io con la Boldrini non mi verrebbero neanche in mente delle cose del genere, insomma. Ma perché? Ma che c'entra? Di conati di vomito. Sì, stiamo parlando di battute da osteria, battute da bar, meglio le battute anche pesanti, anche volgari da bar, che questo governo che sta ammazzando le imprese, Barone, e le famiglie italiane. Ma lei è iperfascista. Chi se ne frega di quattro spintonate in Parlamento, chi se ne frega di quattro battute volgari sulla signora Boldrini. Non ce ne frega nulla, gli italiani sono incacchiati neri con questo sistema e con questo governo. Chi se ne frega di quattro battute? Il Barone. Ha fatto bene, le sottoscrivo. Ma le sottoscrivo come battute, normali? Nel senso che a me è proprio anche solamente ipotizzare una vicinanza con la signora Boldrini, ripeto, a proposito di... Addirittura, che c'ha di strano? È la tipica radical chic, il peggio del peggio, insomma, è comunista che con i soldi, insomma, è la categoria che più detesto in assoluto. Cioè, lei, dico, si meriterebbe qualcosa, no? No, non lo so, guarda, non lo so, ma detto questo... Comunque, com'è che hanno fatto Parenzo? La cosa divertente, la cosa tragica, che il primo atto del PD, del nuovo Vabbè, PD... Vabbè, questa cosa delle banche, ho capito. Fare un regalo miliardario alle banche, alla faccia dei lavoratori, Vabbè, alla faccia delle imprese italiane, Vabbè, alla faccia del Barone, italiane. Non siamo in campagna elettorale. Il PD deve strafotte dei lavoratori, Barone, del popolo italiano, fa gli interessi dei banchieri, del banco. Caro Parenzo, purtroppo è questo. Purtroppo un attimo, è la grande novità di Renzi è che Renzi sostiene i banchieri. Senti, Baro, ecco quello che cantavano la camera, aspetta. Vai Parenzo, roba tua, dai. Mi son svegliato. Bella ciao, devo tappare le orecchie. Mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Sarebbe la marina. I tedeschi erano nostri alleati, c'è stato un po' di confusione in quell'attimo. Va bene. Ciao bella, portami via, sento di morire. Ciao Barone, buona serata. E se ciao, io ciao. Ciao. Da partigiano. Bella ciao. E se io muoio. È stato con da noi. Partigiano. Sì, vabbè, adesso fermati pure tu. È stato con noi Roberto Yonghi Lavarini, detto il Barone Nero. Ma non è una persona normale. Nicola da Padova, Nicola. Ciao Curciano Parenzo. Dimmi. Io sono un po', tra parentesi, tra virgolette, offeso, perché non mi sento né uno squadrista né uno stupratore, quindi mi riferisco alle affermazioni di Parenzo della Boldrini. Sono un attivista del Movimento 5 Stelle, mi candiderò alle prossime comunali, sono una persona moderata, una persona che riconosce che all'interno del Movimento ci sono persone che esprimono delle valutazioni su cui io non condivido, e soprattutto il modo di esprimere. Ma anche negli altri partiti ci sono delle persone che esprimono dei concetti in maniera sbagliata e nessuno li attacca in maniera così, così acuta. La seconda cosa, siccome è intervenuto in questo momento, ho appena sentito, anch'io sono figlio di un partito, di un ex politico della Democrazia Cristiana, e non per questo mi vergogno di mio padre. L'altro giorno ci siamo confrontati e abbiamo entrambi parlato dell'utilità da parte della nostra Camera di dividere il decreto da IMU e pertanto non vedo perché dobbiamo essere tutti considerati degli squadristi e degli superatori. Mica tutti, infatti. Quello che è stato detto, sì. Lei ha detto una cosa molto ragionevole. Lei ha detto che tutti coloro che la maggior parte di quelli che scrivono sul blog con nome e cognome, quindi ben identificati, poi non so se siano loro o sono nomi di fantasia, sono degli squadristi violenti. Bene, ma questo sicuro. Però, lei però ha detto delle cose ragionevoli. Potenziali stupratori, ha detto una puttanata. Ha detto delle cose, però, lei invece ha detto delle cose molto ragionevoli e anche condivisibili. Però all'interno del blog si possono evidenziare anche le persone come me che scrivono delle cose moderate e ragionevoli. Spariscono nel mare magnum della violenza, spariscono purtroppo. Su cui anche non è vero, guardi, ce ne sono tante. E le dico una cosa: all'interno del nostro movimento e anche nel mio gruppo del comune ci sono anche delle persone che la pensano diversamente da me, ma ci sono molte persone moderate come me. Sì, io sono un manager di un'azienda, ci sono dei commercialisti, ci sono degli operai, ci sono dei medici, ci sono degli infermieri. Lei si capisce che è una brava persona? Si capisce come? Ma no, ma ce ne sono tante di brave persone. Grazie. Arrivederci, grazie. Buonasera. Non me moleste moschito. Vogliamo sentire una performance di Rocco Casalino di qualche tempo fa? Rocco Casalino, oggi portavoce, non so di che cosa, coordinatore della comunicazione dei 5 Stelle alla Camera. Sentiamolo in qualche performance. Sentite questa, eh? Hot. Rocco Casalino, hot. Io una volta a Bologna sono andato a vedere la Rizzo, Jessica Rizzo, con la mia ex ragazza giapponese Mieko, no? Lei veniva da Giappone, noi con lei è stata quella con la quale ho fatto le cose più strane, in biblioteca. In biblioteca? Era tutta timida, allora ti ispirava a farne cose più strane. Certo, no? Quando uno è timida. In piazza Venezia a Roma, Venezia piena di gente, io col cappotto, la faccia, abbiamo fatto proprio davanti alla cosa, mentre guardavamo, se ne è parlato, che le piaceva guardare quei due militari. Ma cosa? Pensa a loro, pensa ai due militari come piaceva guardare loro. I due militari, dicevo, pazienza. Perché lei eccitava questa fatto che loro e voleva che loro ci guardavano e io mi mettevo in una posizione tale che lei timida. Guardasse loro e che lei praticamente nel godimento sperava che loro la guardassero. Certo, la timidezza fa queste cose. Forse sperava anche che lo sostituissero. I racconti hot di Rocco Casalino. Maria da Genova. Buonasera. Scusatemi, ma veramente stavo seguendo quello che stavate dicendo adesso. Un attimo. Pronto? Francesco Neri? Sì. Sono Cruciani, Radio 24, ciao. Senti, ciao, come stai? Ti disturbo? Tutto bene, sì. Senti, Grillo adesso ha appena scritto una cosa. Sì. Francesco Neri, noto per aver bruciato i libri di Augias, non rappresenta il Movimento 5 Stelle, utilizza senza alcuna autorizzazione il simbolo del Movimento 5 Stelle. Che ne pensi di questa cosa? Non lo so, dov'è che uso il simbolo? Ah, non lo usi allora? Cioè, sbaglia Grillo non a dire che... No, può darsi pure. Sono un attivista, può darsi pure che lo uso, ma non ho presente dove. Ma tu sei iscritto al 5 Stelle? Sì. Sei iscritto al 5 Stelle? Perché hai bruciato questo libro? No, ma te lo chiedo senza... Non è che ti sto criticando. Uno può criticare il 5 Stelle e nello stesso tempo anche bruciare un libro di Augias, non ci trovo niente di particolarmente... Io ho conosciuto di persona Augias, sì? Mi ha venduto lui il libro, mi ha fatto anche l'autografo. Dopo, quando l'ho sentito invece mentire scientemente, perché Augias è uno che sa, non è un ignorante, sì, ho ritenuto il suo libro, a parte che era l'unica cosa che avevo, se avessi avuto un calzino di Augias avrei bruciato un calzino di Augias. Comunque quel libro secondo me era... No, ridevo con la storia del calzino. La prossima volta mi farò autografare un calzino. Cioè, quando l'hai sentito... Un libro di regime, anche se simbolicamente, perché parlava poi invece di cripte, di chiese, di cose belle dell'Italia. E perché di regime? Cose belle dette da una persona brutta dentro. Perché brutta dentro? Quindi si brucia il libro. Perché mente. E chi mente scientemente inganna il popolo, ingannare il popolo usando il proprio carisma, la propria scienza, è il male assoluto, secondo me. Scusa un attimo. Ma chi decide che inganna il popolo? Scusami Francesco, se ti chiedo questa cosa. Tu ti è venuta questa cosa quando l'hai visto dalla Bignardi, certo, dopo l'intervento di Di Battista. In che cos'è che ha mentito? Lui ha espresso la sua idea sui 5 Stelle. Non è che ha mentito? Lui in pratica ha detto che in Italia va tutto bene, dal suo attico di Parigi, è troppo comodo. Beh, non ha detto che va tutto bene, ha espresso dei giudizi sui 5 Stelle rispetto a quello che i 5 Stelle avevano fatto, definito fascisti, squadristi, sì, inconsapevoli. La consistenza del Movimento 5 Stelle, secondo me fascista è lui, e io quindi ho bruciato non un libro, io ne ho tanti di libri, sì, li amo, sì. Ho bruciato un libro fascista, secondo me. Un libro simbolicamente fascista. Sì, certo. Scusa un attimo, ma se tu ce l'avessi davanti, Augias, che cosa faresti? Assolutamente no, assolutamente gli chiederei, beh, io non sono un violento, non lo so mai. No, no, ma è una domanda, no. Infatti, ho detto. Ah, beh, ci mancherebbe. Avessi davanti Augias, gli direi che secondo me dall'alto del suo carisma e del suo sapere dovrebbe impiegare queste sue caratteristiche per il bene di chi ha avuto molto meno di lui e tuttora ha. Però può sembrare che uno che va contro il Movimento 5 Stelle viene subito bollato come fascista, questo è il punto, capito? Può sembrare, ma non è assolutamente così. Comunque del fascista l'hanno detto a me. Perché, detto nazista, perché, perché Grillo sembra rinnegarti con questa cosa? Cioè, dice... Forse pensa che strategicamente la mia mossa, e lo posso anche comprendere, sia negativa. A me va bene tutto quello che opportunismo, quindi. Va bene tutto quello che dice Grillo. Beh, fino a oggi non si è mai sbagliato, sì. Grazie, a presto. Grazie. Grazie, ciao, ciao. Ci sentiamo domani. Ciao. Ma che te lo dici? Niente, non è roba che fa lì. Che fa l'autorità giudiziaria, sei. Arrivederci. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Non vi abbandonerò mai. Radio 24. La passione si sente.